in primo piano. Giovedì 10 marzo è il giorno della presentazione della riforma epocale sulla giustizia. L'aggettivo epocale è del premier Berlusconi. Le aperture dei giornali, Il Sole 24 Ore, declassate 6 banche greche. Questa è l'apertura sulla finanza internazionale, ma appunto Napolitano, dialogo sulla riforma, così apre il Corriere della Sera. Giustizia, la riforma anti-PM, questo è il titolo di Repubblica. Giustizia, pronta la riforma, per La Stampa. Giustizia, riforma sotto esame, per Il Messaggero. Insomma, le aperture sono soprattutto su questo. Poi c'è altro, segnalo solo un'esclusiva del Fatto Quotidiano, che poi vedremo. Soldi per cambiare la data di nascita di Ruby. Il 7 febbraio due misteriosi italiani offrono un'ingente somma all'impiegata dell'anagrafe di Fchi in Marocco. Lei rifiuta e per ora Karima resta minorenne. È un'inchiesta di 2 pagine su cui apre il Fatto con queste notizie. Poi lo vedremo. Le segnalazioni iniziali. La prima viene da Libero e riguarda Affittopoli. Il controllore, ragazzi, questa è una storia che se vera un po' fa arrabbiare, eufemismo. Il controllore delle case se ne affitta una a metà prezzo. Tommaso Labranca racconta la storia di un senatore. La vicenda è Affittopoli. E Tommaso Labranca dice: ma ci sarà qualcuno che controlla l'assegnazione di quegli appartamenti? Certo che c'è. A Roma c'è il senatore del PDL Francesco Maria Amoruso, ex presidente della commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Insomma, tra il 2001 e il 2006 è colui che si proponeva di condurre importanti indagini conoscitive sull'efficienza di INPS, INPDAP, altri enti sia pubblici che privati previdenziali. Viene presentato da Libero anche, eccolo in foto, ricorda un po' Tognazzi, ma all'improvviso ci troviamo di fronte, invece che Tognazzi, il peggiore Alberto Sordi, perché, spiega Libero, come in una commedia all'italiana scopriamo che colui che avrebbe dovuto condurre importanti indagini conoscitive era in realtà assegnatario dal 2004 di una casa ai Parioli di proprietà delle Nasarco, la cassa di previdenza degli agenti rappresentanti di commercio, sia uno di quegli enti su cui avrebbe dovuto vigilare. 150 metri quadri, anche i non romani sanno che valore hanno i Parioli, tutto offerto a 1.141,11 euro al mese di affitto, un appartamento che in realtà, scrive Libero, varrebbe il doppio. Non indignatevi, perché a quella somma il povero senatore doveva aggiungere a ogni scadenza 70 euro di spese condominiali e ben 91 di riscaldamento. Storie già sentite, ma scrive Libero, il caso di Amoruso è doppiamente grave perché riguarda un signore che doveva verificare che casi simili non accadessero. Eccolo qui, il garante degli affitti si dà la casa a metà prezzo, così titola Libero. Tra l'altro, guardate, coincidenze, uno va sul Corriere della Sera per una vicenda che non c'entra niente, quella delle quote rosa. Resoconto parlamentare, ieri Mara Carfagna, il ministro Carfagna, parla delle quote rosa in Parlamento, inizia l'intervento, a un certo punto, infastidita, si ferma e dice: pregherei il senatore alla mia destra di parlare più a bassa voce al telefono, perché da quando è iniziato l'intervento che mi disturba. Il senatore a quel punto vorrebbe scomparire. Chi è questo senatore? Francesco Amoruso, proprio lui, insomma, che ha passato la giornata evidentemente incrociando il Corriere e Libero, pessima. Francesco Amoruso, senatore di Bisceglie, di cui è anche vice sindaco, vorrebbe scomparire, racconta il Corriere a quel punto, perché Mara Carfagna poi insiste: il fatto che le donne non riescano a raggiungere gli obiettivi auspicati dipende anche dalla scarsa attenzione che l'altra metà del cielo dedica a tali temi. Francesca Moruso, scrive Alessandra Racchi, vorrebbe davvero scomparire. Più tardi racconterà: ho chiesto scusa al ministro. Ma temo che delle due storie, quella raccontata da Libero, che riguarda il senatore Amoruso, titolata Il garante degli affitti si dà la casa a metà prezzo, sia un po' più grave di quella di avere disturbato l'intervento del ministro Carfagna. in Parlamento. Ah, che straordinaria storia quella del senatore Amoruso. Tra l'altro, come mi ricorda il sempre sveglio H24, come direbbe un militare, Alessandro Marco Tulli, che lavora con Oscar Giannino, mi ricorda che, giustamente, questo è il tema di cui si occuperà Oscar Giannino, le case, affittopoli. E il senatore Amoruso ci sarà, ospite. Spiegherà qualcosa di questa casa ai Parioli, del fatto che ha disturbato la Carfagna al telefono. No, vabbè, questo dai, non è una cosa grave. Alle 9, Oscar Giannino. Oh, oggi è il giorno della giustizia, proprio alle 9 c'è il Consiglio dei Ministri. E allora, giustizia, Alfano cerca l'ok del Colle. Ieri c'è stato un incontro di 2 ore del ministro Alfano, che ha illustrato al capo dello Stato Napolitano la riforma punto per punto. C'è qualche retroscena, per esempio dal Corriere della Sera: il premier, una casta, si metterà di traverso. Francesco Verderami racconta come il cavaliere non si faccia illusioni, non se n'è mai fatto, convinto che la casta dei magistrati e le opposizioni si metteranno in ogni modo e con ogni mezzo di traverso, anche se questa è l'esegesi del pensiero di Berlusconi. Questa è un'occasione irripetibile per i cittadini del paese, se venisse sprecata se ne riparlerebbe forse tra 50 anni. C'è da dire che però, leggo l'articolo, l'editoriale che Michele Ainis, costituzionalista, scrive dal titolo "Per una giustizia veramente giusta" sulla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, definita epocale questa riforma dal Presidente del Consiglio, ma scrive Ainis: in realtà fin qui di epocale c'è stato solo l'annuncio di questa rivoluzione normativa, nel senso che ci risuona nelle orecchie da un'epoca intera, da quando la Seconda Repubblica ha mandato in cenere la prima. E allora 3 lustri dopo ci sale in gola un fiotto di domande. Sicuro che c'è bisogno di scomodare la Costituzione per curare i guai della giustizia? Sicuro che la prima riforma costituzionale da mettere in cantiere è proprio questa? Stando alle anticipazioni, la terapia verrebbe somministrata in 6 dosi. Primo, via l'obbligatorietà dell'azione penale. Secondo, via il controllo delle toghe sulla polizia giudiziaria. Terzo, inappellabilità delle sentenze d'assoluzione. Quarto, una corte di disciplina e uno specifico dettame sulla responsabilità dei magistrati. Quinto, separazione tra giudice e PM. Sesto, per corollario, separazione del Consiglio Superiore della Magistratura in 2 figli gemelli. Una cura da cavallo per procurare il sommo bene che il ministro Alfano non si stanca di indicare: la parità tra accusa e difesa. Peccato, scrive Ainis, che la bontà sia già scolpita sulle tavole costituzionali, precisamente l'articolo 111. E poi, nel concludere l'editoriale, Ainis scrive: pensiamo a queste riforme invece. Informatizzazione degli uffici giudiziari, il loro sfoltimento, ne abbiamo 1292, il doppio della Spagna. Una sforbiciata sui troppi procedimenti e riti, quelli civili sono 34. Un tappo al ricorso in Cassazione, in Italia deposita 30.000 sentenze, 30.000, in Inghilterra 75. Una ghigliottina per le nostre 40.000 leggi che rallentano i processi e trasformano il diritto in una giocata a dadi. Magari queste riforme non aprirebbero al governo il pantheon della patria, non regalerebbero a Berlusconi e ai suoi ministri un posto tra i nostri padri fondatori, ma noi, figli disgraziati, gliene saremmo grati. Così Michele Ainis sul Sole 24 Ore. Tra l'altro, la questione della giustizia ha fatto arrabbiare i magistrati, che ieri si sono visti le mail private pubblicate dal giornale, delle quali un magistrato diceva: quando lo zietto Berlusconi se ne sarà andato, il problema saranno i suoi elettori, tra l'altro. E oggi il direttore del giornale, Alessandro Sallusti, ci ritorna: la coda di paglia degli spioni. I magistrati si sono molto arrabbiati dopo aver letto sul nostro quotidiano le loro mail nelle quali sparlano di Berlusconi. E ci credo, al loro posto avrei avuto la stessa reazione. Veder pubblicato sui giornali cose che uno pensa debbano restare riservate fa girare i santissimi. Però, scrive Sallusti, abbiamo pubblicato una notizia. Non ne è molto convinto il garante della privacy, che ha aperto 2 indagini ieri su che cosa? Sulle mail pubblicate sul giornale, ma anche su 2 notizie che avevamo letto ieri, anche sui conti personali del presidente Berlusconi, snocciolati ieri sul Corriere della Sera. Io sono rimasto folgorato da quei 40.000 euro regalati per dono di nozze a una segretaria. Qualcun altro è rimasto folgorato e ci ha scritto: faccio anch'io il DJ se c'è un posticino, per favore, 100.000 euro per i DJ che animano le feste a casa di Berlusconi. Il DJ, uno, il fortunato. Sta di fatto che il garante della privacy ha aperto 2 due indagini per cercare di capire insomma, che cosa ci sia in questa pubblicazione di informazioni personali da parte di due quotidiani, Il Giornale e Il Corriere della Sera. A proposito di giustizia, vi segnalo che cosa? No, a proposito, oggi è il giorno della giustizia, ma l'altro tema politico che trovate molto sviluppato sui giornali è questo: la rivolta dei responsabili, così la definisce Repubblica, che hanno fatto andare sotto, tra l'altro, alla Camera la maggioranza su una proposta degli alpini. Ve la ricordate? Ne avevamo parlato. La proposta è stata brutalmente definita così: quote riservate per chi al nord si vuole reclutare negli alpini. Non è proprio così, ma ne parleremo alle 8:20, quando sarà nostro ospite l'onorevole che ha proposto questi incentivi per il reclutamento degli alpini nelle zone dove ci sono le Alpi, e quindi soprattutto, non solo, ma soprattutto al nord, anche in Abruzzo. Ma il mal di pancia dei responsabili è legato al rimpasto. Questo rimpasto di governo, da giorni ne parliamo, sta diventando, Libero la definisce una nuova grana. Per dire sì ad Alfano, i responsabili alzano il prezzo. Lagnanze e richieste. Un ministro vogliono, Romano all'agricoltura, 5 sottosegretari. E Berlusconi cosa fa? Scrive Salvatore Dama, deve resistere. Perché, come dicevamo ieri, Napolitano è contrario ad allargare quello che la legge Bassanini mette come tetto di rappresentanti di governo, però le richieste arrivano. D'altronde, se, come si legge dai giornali, potrebbero aumentare il numero di questi responsabili, arrivare fino a quota 325, si fanno i nomi di 3 deputati che potrebbero lasciare i loro partiti e andare a ingrossare le fila dei responsabili. Uno di questi dovrebbe venire addirittura dall'Italia dei Valori, e Libero tra l'altro dice inizia per D di Domodossola questo cognome, ed escludendo Di Pietro potrebbe essere l'unico che rimane Di Stanislao. Chissà se è lui, lancia così un po' di veleno Libero, chissà se l'onorevole Di Stanislao dell'Italia dei Valori sta passando ai responsabili. Ma insomma, aumentando il numero di responsabili aumentano anche le persone che dicono: beh, a questo punto però vorremmo che cosa? Uno strapuntino, un posto da sottosegretario, visto che c'è un rimpasto in vista, no? Tanto che Razzi, uno, quello dell'Italia dei Valori, che poi ha lasciato l'Italia dei Valori e è andato nei responsabili, ha detto: sembriamo un kindergarten, un asilo infantile, tutti a chiedere qualcosa qui tra i responsabili. Eccola qui anche la Stampa: rimpasto, liti, morte, miracoli della folla degli aspiranti. Un ricco sottobosco, troppe poche poltrone. E Razzi lamenta: volevo un posticino, ma sembriamo all'asilo. A pagina 9 della Stampa, mentre Il Secolo XIX scrive a pagina 3 che tra i quasi sicuri, ma qua di sicuro non c'è proprio nulla in realtà, quello che è una certezza oggi in politica, domani non lo è più, un posto che viene dato per sicuro è la bella Nunzia, l'onorevole Nunzia Di Girolamo, pronto un posto al governo, scrive Il Secolo XIX per lei, è la vera sorpresa, combattiva nei talk show, diventata famosa per... soprattutto, scrive Il Secolo XIX, per due vicende. Primo giorno di legislatura, il biglietto del presidente Berlusconi a lei e a Gabriella Giammanco. Gabri, Nunzia, state molto bene insieme, grazie per restare qui, ma non è necessario. Se avete qualche invito galante per colazione, vi autorizzo ad andarvene. Molti baci a tutti e due. E poi, la più di recente, l'annunciata, ma poi smentita dagli interessati, liaison bipartisan tra lei e l'onorevole Francesco Boccia. Per lei ci sarebbe un posto da sottosegretario, assicura Il Secolo XIX. Questa è una vicenda invece minore, che mette però in prima pagina il Riformista, un problema, almeno così lo profila Riformista, per il ministro Brunetta. Un copygate per Brunetta. Sono le Iene, con Paolo Calabresi, lo Zelig delle Iene, che di recente ha fatto un servizio che non è ancora andato in onda, irrompe in un convegno, va a caccia del ministro per la pubblica istruzione Brunetta, chiedendogli: conosce questo libro, prima di accusare il quasi Nobel di avere copiato parti di uno dei suoi testi scientifici, Microeconomia del lavoro, scritto con Alessandra Venturini, pubblicato nel 1987 da Labor Economics, vergato da Belton Fleischer e Thomas Nisner. un plagio che avrebbe riguardato grafici e figure, qualche riga tradotta, un lungo brano parafrasato, non molto in verità, ma abbastanza per alzare un polverone e lo share. E così le Iene sono tornate all'assalto. La verità è che, scrive il Riformista, nulla di nuovo, già l'Espresso raccontò questa storia. Sta di fatto che pare che Brunetta sulle accuse di plagio non ha risposto, ma aspetta di vedere la puntata per decidere eventuali azioni legali, mentre l'inviato delle Iene ricorda come il ministro, prima di infilarsi in macchina, abbia sibilato: adesso parlo con il vostro capo. Questo racconta il Riformista, mentre voglio andare allora a quello che è presentato come lo scoop del Fatto Quotidiano, meglio l'esclusiva del Fatto Quotidiano. Viene messa in prima pagina proprio con questa dicitura esclusiva: soldi per cambiare la data di nascita di Ruby. A pagina 2 e 3 gli inviati a Fki Ben Salah in Marocco, il paese natale di Karim El Mahroug. Sono tre inviati, raccontano di questa signora quarantenne, funzionario pubblico di una sperduta cittadina del Marocco, che ha scelto di fare il suo dovere e non barattare la sua dignità con quella che per lei era una montagna di denaro. Si chiama Fatima, dietro garanzia dell'anonimato, nome di fantasia, ha accettato di raccontare al Fatto Quotidiano quello che è successo. Un mese fa due italiani, accompagnati da un interprete marocchino, sono venuti in questa cittadina e gli hanno chiesto di cambiare i dati anagrafici di una certa Karima El Mahroug. Già, proprio lei, Ruby. Quella coppia di stranieri aveva in mente un piano preciso, per questo hanno chiesto a Fatima di diventare loro complice. Eccolo il piano: si sostituisce un documento con un altro, si fa scomparire per qualche tempo un pubblico registro e il gioco è fatto. Le hanno spiegato che volevano dare un'occhiata ai documenti, hanno detto che c'era un errore, l'anno giusto di nascita era il 1990 invece del 1992, cioè retrodatare di 2 anni, e poi le hanno offerto una montagna di denaro. Che fare? Alla fine Fatima preferisce lasciar perdere perché non voleva passare dei guai. Questo, il Fatto Quotidiano si chiede chi erano questi italiani. Questa è la storia che viene raccontata con il titolo «Chi li ha mandati? Ruby blitz di due emissari in Marocco per falsificare i certificati e renderla maggiorenne salvando Berlusconi». Lasciando la politica e arrivando a cose economiche, finanziarie, vi voglio segnalare intanto in prima pagina del Foglio parla Attilio Befera, 64 anni, origini abruzzesi, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, un mastino bipartisan che ha consentito allo Stato di recuperare l'anno scorso 25,4 miliardi di euro di evasione fiscale. Il titolo dell'intervista è «Niente tesoretto pro crescita, ma saremo meno assillanti». Ebbene, questi 25 miliardi e 400 milioni, una manna per le casse dello Stato, un dolore per i contribuenti che hanno dovuto sborsare soldi all'erario, li definisce il Foglio. Befera racconta come è arrivato a farli recuperare. Sono un servitore dello Stato, cerco di far pagare le tasse a coloro, grandi e piccoli, che non le pagano. In tre modi siamo riusciti a recuperare questa cifra, grazie a norme volute dal governo e approvate dal Parlamento che ci hanno dato gli strumenti, come la stretta sulle compensazioni, l'inversione dell'onere della prova per i capitali detenuti all'estero, poteri più incisivi per il controllo, poi grazie alla riorganizzazione degli uffici e grazie alla capacità dei nostri uomini. Però poi Befera dice, attenzione, secondo qualcuno una parte di questi 25,4 miliardi sono un tesoretto a disposizione del governo per politiche pro crescita, ma ecco cosa risponde Befera: non esiste un tesoretto da poter distribuire, gli incassi sono lievemente superiori alle previsioni di entrata, il bilancio dello Stato incorpora già le entrate da recupero evasione. Insomma, quei 25,4 miliardi non si possono spendere. La risposta di Befera è no. E comunque noi quest'anno contiamo di ricavare ancora di più dal recupero dell'evasione. Poi dice gli italiani ci appoggiano, nonostante anche le critiche che piovono su di lui. Per quel che riguarda sempre a livello economico e finanziario, molto interessante, voglio segnalare che Federico Fubini del Corriere ha raggiunto, ha scovato, si può dire, l'ex, bisogna dare la parola, ex governatore della Banca Centrale della Libia, Farhat Omar Bengdara, uno dei gialli di questa vicenda libica, uno dei misteri, era scomparso fino a ieri, anche perché è vicepresidente di Unicredit. nella quale la Libia, sapete, ha una quota importante, oltre il 7%. E allora il banchiere centrale in esilio, no a sanzioni, colpiscono i civili. Vive a Istanbul in questo momento, neanche lui però sa bene se sia ancora legalmente il governatore di Libia, della Banca della Libia, oppure no. Di fatto è stato sostituito da un facente funzioni, il ministro delle finanze del regime Abdel Zlitni. Lui dice: questo per me non conta più, tanto non credo che tornerò mai a lavorare per la banca centrale della Libia. Il mio lavoro non è fare la politica, chiedo che si fermino le violenze, credo che non ci debbano essere le sanzioni che colpiscono i civili. E riguardo alla situazione con Unicredit, non è questa la questione più urgente, ma ultimamente sono in contatto, ho parlato col presidente Dieter Rampel più di una volta, ho parlato con l'amministratore delegato Ghizzoni, che io chiamo Federico, una volta. E riguardo, non preferisce dimettersi data la piega che hanno preso gli eventi? Non mi è stato chiesto e non credo che la mia presenza nel consiglio di Unicredit costituisca un problema per la banca. Insomma, è un po' una situazione in un limbo, dice, non so neanch'io quanto sono legittimato e quanto posso parlare. Che dire, cosa c'è di altro? Beh, tanto trovate molto sulle quote rosa che sono state di fatto approvate dopo un primo stop. Il dato di fatto, come racconta Il Sole a pagina 7, è che il 30% di donne entreranno nei consigli di amministrazione dentro il 2015. È una sorta di dietrofronte del governo che prima aveva bloccato questa norma, mentre invece ora c'è stata un'accelerazione. Il sì definitivo però dovrà esserci martedì in aula. Il Sole 24 Ore fa sapere che solo nelle quotate ci saranno 360 posti da sostituire nei prossimi 3 anni. Per esempio, insomma, tra Sergio Marchionne e John Elkann siederanno nel Consiglio di Amministrazione 3 donne al rinnovo previsto in occasione dell'Assemblea 2012. Certo, è una rivoluzione a suo modo. Donne nei posti di comando, si parla di donne manager, donne nei consigli di amministrazione, il 30% dovranno essere entro il 2015. Ci sono vari commenti. Libero, per esempio, ci dedica all'apertura del quotidiano, che però è scomparso. Eccolo qua. Comandano le donne, una legge le impone. C'è da dire che Libero è abbastanza critico su questo. A che ora devo chiudere? Tra un minuto e mezzo? Allora posso segnalare ancora che c'è l'ordinanza del sindaco di Capri, per la cronaca, rumori vietati d'estate, l'ultima crociata di Capri. La leggo da Repubblica, ma anche sulla Stampa. Capri ferma trattori e gru, troppo rumore. I turisti vengono a cercare la quiete, ma sull'isola l'ordinanza ha già scatenato le polemiche. Già l'ordinanza, ricordate, contro gli zoccoli da parte del sindaco di Capri. Poi anche l'ordivieto di circolare in déshabillé nella celebre piazzetta. Ora, per tutelare la tranquillità dei turisti, basta questi decespugliatori, macchinari edili. Silenzio assoluto ad agosto. Questo il sindaco di Capri. E poi, quanta ironia sprecata a quest'ora del mattino. Io ieri l'avevo detto che non avrei letto la Gazzetta dello Sport, sapendo che insomma sarebbe stata dura, difficile. E invece qui mi scrivono: oggi leggerà la Gazzetta dello Sport. Ma sì che la leggo, la Gazzetta dello Sport. Il titolo è abbastanza ridicolo: fuori i migliori. I migliori saremmo noi del Milan. Insomma, il Milan ieri ha pareggiato 0-0, non è passata. La verità è che sono due verità: che il calcio italiano ormai a livello internazionale è ridicolo, e che in 180 minuti Milan non ha fatto un gol contro il Tottenham. Meno male che siamo usciti negli ottavi, se no se incontravamo uno tipo il Barcellona finiva con una valanga di gol. Questo è il livello del calcio italiano. Ora confidiamo tutti nel Bayern, nell'Inter. Ci fermiamo il GR.